Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno e buon Natale a tutti. Franco Piantanì dal nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, vi fanno pure gli auguri vestiti rigorosamente da Babbo Natale. E dato che è Natale, che tutti siamo buoni, che ci ispiriamo a tutti i migliori sentimenti del mondo, oggi non vogliamo parlarvi di cose pesanti. Polemiche, quelle che sono emerse nel corso della stagione calcistica, a partire dalla più violenta. Argomento estremamente natalizio. Torniamo al 5 ottobre, il giorno di Juventus-Roma, 3-2, un uragano che dura tuttora. Io voglio farvi riascoltare cosa disse a Maurizio Crosetti, penna illustre e velenosissima di Repubblica, quel giorno nostro ospite, il 7 ottobre. Sentiamo. Non puoi uscirmi così, perché se un capitano di mia squadra esce così, e dicendo che arrivano allo stesso secondi, a sesta giornata di campionato, non so se lo lascio ancora capitano. Intendi? Sai cosa vuoi? Intendo. Cioè, è giusto così parlare, perché siamo a sesta giornata. Io ho sentito oggi dei giornali che hanno scritto delle cose Totti. Che campionato falsato, sesta giornata di campionato. Posso dire, ma dove siamo? Ci abbiamo tutto il campionato da giocare. Ma non è possibile parlare così. È un messaggio impossibile. Ma succedono ancora le cose? Io spero di no, ma succedono le cose, perché il calcio che possiamo fare? Rocchi, vi dico, è tra i più bravi che in Italia ci avete, ve lo dico io, lo sapete tutti quanti. Purtroppo per chi odia la Juve non hai, per chi odia la Juve non ci sono immagini iconiche, c'è solo il male assoluto di 30, 20, 10 anni fa, ieri l'altro, il male assoluto, gli arbitri, giudici, stati, tutto, il male assoluto. Io non capisco, ma come fate ad alzarvi la mattina? Dei tanti imbecilli oggi ha detto che Agnelli è ancora peggio di Moggi, c'è ancora più ladrone, cioè non si limita a telefonare, ma manda il bonifico. Di che cosa stiamo parlando? Dei centimetri di o dei bonifici? Ma non mi fare Juve piangere! Allora, Luigi Pardo oggi mi ha raggiunto, è venuto direttamente con la mimetica e l'elmetto da tiki-taka. Come va? L'ho convinto a lasciare l'elmetto sull'uscio per infilare la cuffia, ma la mimetica non serve. Io sono il casco blu dell'ONU, sono svizzero. Tutti noi questi giorni, ma dai. Siamo tutti impolverati dopo Juventus-Roma, in certi giorni serve Maurizio Crosetti. Ah, il cross, come va? Però. Buongiorno, eccoci. Sono una galoscia. Ti stai perdendo delle puntate di Tiki Taka, quella precedente con Zeman e Mughini e Ferrero, quella di ieri pure. Ti stai perdendo delle puntate a un certo livello, eh? Io me la sono goduta davanti ai diffusori, come diceva Livio Forma. Com'è stata? Siamo stati squilibrati, dimmi, perché siccome gli juventini mi dicono che ma come fai a far parlare Liguori, Giordano, vergogna, che ci faceva Nedved in quel pollaio, i romanisti mi dicono dovevi zittire Nedved subito quando ha detto le cose su Totti, come ti è sembrato? Equilibrato o no? Sinceramente, Mi è sembrato che ognuno giustamente dicesse quello che pensava, e voglio dire, c'è ancora libertà di parola. Poi per il tifoso la libertà di parola finisce quasi sempre quando qualcuno dice quello che non pensa lui, o quando qualcuno non tifa per la squadra che tifa lui, ma non è il metro di paragone di nulla quando si esercita la critica al tifoso. Il tifoso è un interlocutore, è una parte di noi quando siamo in quel ruolo, o eravamo in quel ruolo da piccoli, dopodiché quando eserciti il tifoso è ovviamente imprescindibile, senza tifosi il calcio non esisterebbe, quindi questo è assolutamente evidente. Io penso sinceramente che ieri siano state espresse delle opinioni molto forti da una parte e dall'altra, e mi rincuora sapere che gli insulti che la redazione di Tiki Taka ha ricevuto in queste ore li ha ricevuti sia dagli juventini che dai romanisti, certo, vuol dire evidentemente che posso dire cosa, che sarà molto triste il giorno in cui non ci sarà più spazio nel calcio e anche nella politica per il contraddittorio, i giorni nei quali noi gli juventini guarderanno soltanto Juve Channel, i romanisti guarderanno soltanto Roma Channel, si parleranno fra di loro, ma e saranno tutti d'accordo, sai, fra Piero, di loro. Ognuno poi alla fine ha le sue idee, se le tiene e non le cambia. Per esempio c'è un signore che si chiama, guarda, te lo dico in diretta, Claudio Bazza, che mi manda in questo momento una mail che leggo sul telefonino. Scusate, Maicon è il primo colpevole sul primo rigore, se fosse stato fermo in barriera come da regolamento avrebbe evitato l'episodio. Il regolamento dice che bisogna stare sedersi sulla sedia, ma vedi che è irrisolvibile, non c'è una possibilità di dirimere queste cose, perché alla fine ognuno ha le sue, ha la sua fede, ha le sue bandiere, ha le sue, suo modo di pensare, ce l'ha e se lo tiene, anche con Rosetti. Sì, io penso che a mente fredda non si dovrebbero dire o scrivere le cose che si dicono o scrivono a mente calda, nel senso che Garcia ieri ha fatto quel tweet dicendo a mente fredda penso che, e poi ha rovesciato un sacco di mente calda in quel Twitter, e lo stesso in quel tweet, lo stesso oggi Bonucci, per non parlare della signora Emma, no? Ecco, la signora Emma. Quindi vabbè, insomma, al di là che Twitter andrebbe, lo dico anche per me, insomma, gestito con maggiore con serenità autocontrollo, ecco. Però insomma, poi alla fine il vero problema è che non c'è un turno di campionato mercoledì, e quindi tutta questa zuppa terribile, questo pantano, dovremmo trascinarlo un po'. Ci fa anche comodo, come giornalisti, diciamolo, non siamo ipocriti. No, certo. Ecco. Però insomma, diciamo che una volta diceva est modus in rebus, no, oggi lo dice solo più Lotito questo, e quindi non c'è più tanto modus e ci sono troppi rebus e anche troppe parole. Ma al di là di tutto questo, tu in mezzo alla polvere ti sei fatto un'idea del valore della Juventus? Cioè, ti sei fatto un'idea calcistica su questa partita? Sì, ma intanto a me la partita è piaciuta, perché poi alla fine ho anche letto commenti sul fatto che sia stata abbrutita dagli episodi. È stata vivacizzata, condizionata, ma non abbrutita dagli episodi. È stata una bella partita, sembrava Barcellona-Real Madrid, quando litigano, segnano, si menano, discutono. Una partita che il calcio italiano molto, molto raramente può frequentare, e non parlo degli eccessi. L'idea che mi sono fatto è che la Juventus sia ancora migliore, che la distanza probabilmente si sia ridotta, che la Juve abbia dentro di sé quel qualcosa di estremo che le permette quasi sempre di attuffare qualunque situazione, anche quelle disperate, che la Roma abbia momenti di gioco persino superiore in quanto a bellezza rispetto alla Juve, ma che la Juve abbia ancora una rabbia nella sua continuità e nella sua concentrazione che la rende un po' la maestra del campionato. Sì. Adesso la Roma dovrà essere brava a non sentirsi troppo vittima di tutto questo, perché il rischio vero è quello che ho letto anche nelle parole di Totti, che io ho detto posso anche condividere, poi c'è la Cruciani che vuole defilare. Ma no, ma ne abbiamo parlato ieri, ma Totti ha parlato a fine partita. A fine partita da capitano frustrato, eccetera. Ma adesso l'importante per la Roma e per il suo cammino sarà quello di non abboccare a questo tranello, no? No, ma assolutamente. No, anche perché si rischia di concedere un alibi, di autoconcederselo, e un campione non può farlo, ma non solo perché è un capitano, è una leggenda del nostro calcio, potrebbe addirittura essere il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, costui, potrebbe esserlo, se ne può parlare, il dibattito aperto, non può un soggetto del genere, anche verso se stesso, cercare scuse, essere convinto davvero che si arrivi secondi perché lo decidono gli arbitri, questa è una fesseria. Dopodiché anche Bonucci dice una fesseria quando scrive che vincere è l'unica cosa che conta, perché se così fosse allora si potrebbe vincere con la frode, con l'inganno, con il trucco, e così nello sport non è, con la corruzione. Lo sanno Totti, lo sa Bonucci, lo sappiamo noi. Quindi ragazzi, chi vince perché è migliore quasi sempre, è alla lunga all'ultima tappa del Giro d'Italia non vince quello che ha avuto un rigore in più. La Sanremo può vincerla uno che ha avuto un rigore in più, ecco, per capirci. Non posso essere d'accordo con quello che ho detto, anzi ritengo che sia lesivo dell'immagine della Juventus e sia grave. Non riesco a capire anche il collegamento che lui fa, perché se si riferisce alla Juventus, devo dire che la Juventus, la Roma solo l'anno scorso è arrivata seconda ed è arrivata a 17 punti, quindi credo in un campionato che noi abbiamo strameritato. Per il resto la Roma è arrivata seconda dopo l'Inter in alcuni campionati, ma mai dopo la Juventus. Questo Marotta, questo Marotta sulle dichiarazioni di Totti. Vabbè, questo... Tra l'altro il paradosso è che queste due società sono alleate dal punto di vista politico e sono all'opposizione del palazzo, sì, no? Nel senso che sono state le due società che hanno fatto la battaglia con Tavecchio, diciamo, più forte. Quindi... Ma questo continuerà, non verrà impicciato. Sì, questo continuerà, però è chiaro che insomma anche dal punto di vista del palazzo è un'alleanza che scricchiola questa, sì, perché insomma la partita non è finita al 90esimo, la partita è continuata dopo. Totti chiaramente è un giocatore strarappresentativo della Roma, la leggenda della Roma negli ultimi 20 anni, se dice quelle cose è una cosa che finisce per essere rilevante. La moglie di Agnelli che fa quel tweet, insomma, io credo che questo sarà un ulteriore elemento da considerare dal punto di vista della politica calcistica, perché insomma l'asse di ferro mi sembra che qualche scricchiolio ce lo possa avere, anche se il post partita, devo dire la verità, con io ho visto quello su Premium, ma insomma ho visto lo scambio Sabatini-Marotta per esempio, insomma è stata all'insegna del fair play, ovviamente di posizioni profondamente diverse, ma del fair play. Posso condividere un'altra considerazione con voi due, Pierluigi Pardo e Crosetti, che poi salutiamo. Mi è capitato di vedere diversi tipi di moviola, diverse inquadrature, diverse cose. Adesso siamo ovviamente come ogni volta, in questo caso siamo tutti qui a dire che serve la moviola in campo, eccetera eccetera eccetera. Paradossalmente sono stati episodi nei quali forse la moviola non sarebbe stata così utilizzabile, decisiva, dirimente. Ma è la somma degli episodi, secondo me. Il tema di questa partita, visto da Roma, è la somma degli episodi. Cioè, la moviola avrebbe risolto tutto? No, questa è. Su Pjanic, secondo me, si può discutere. Cesare dice che era fuori di qualche centimetro, ma l'ha visto dopo una lente che, insomma, ero lì fisicamente a Cologno Monzese l'altro giorno. Ci sono voluti 10 minuti per arrivare a una conclusione per lui assolutamente indicativa. Sull'interpretazione del gol del 3-2 sappiamo che c'è questo punto di vista della FIFA, ma sappiamo anche che c'è una prassi e soprattutto c'è un paradosso, cioè il fatto che il guardalinea non ha alzato la bandierina. Lì il guardalinea avrebbe dovuto alzare la bandierina perché il fuorigioco geografico, come dice Cesare, c'era, il giocatore era nettamente, Vidal era nettamente oltre, e a quel punto l'arbitro avrebbe dovuto dire che la posizione comunque era ininfluente e il gol era valido. Quindi no, ci sono state mille situazioni al limite, tutte tranne Maicon, secondo me. Sì. La cosa di Maicon è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Sul resto si può discutere di tutto, della questione appunto di centimetri, in certi casi addirittura di millimetri. La Roma si lamenta perché c'è una somma di situazioni nei 90 minuti che secondo la Roma porta a un risultato di un certo tipo in una partita estremamente equilibrata. E questo mi sembra abbastanza oggettivo. Maurizio. Sì, devo dire che si è verificata una casistica diabolica di situazioni di millimetri al limite, è molto difficile che in una partita ci siano 3-4 episodi tutti al millimetro e tutti aperti a discussioni infinite anche in presenza di Moviola. Resto dell'idea comunque che l'occhio elettronico non risolverebbe, non risolverà la situazione diabolica, ma chiarirebbe tutto. Aiuta, quindi ridurrebbe comunque il margine di discussione e come dire, toglierebbe tutto il peso dagli occhi e dalle spalle dell'arbitro. Quindi comunque quello io credo che sia un passo ormai inevitabile. Poi certo, se si azzecca la serata diabolica, come ho detto, e con tutta la sfiga del mondo concentrati in pochi millimetri, lì non c'è occhio né elettronico né umano, forse nemmeno l'occhio divino, l'occhio di Dio in campo, potremmo aprire una nuova campagna per portare Dio in campo, il Signor Dio tanto campo. ormai sul versante blasfemia siamo abbastanza ferrati. Sì, assoluto. Sì. Ci difendiamo ormai quando interviene Crosetti. Mau, grazie. A voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Maurizio Crosetti. Tutti convocati. Vabbè, dai Natale, adesso basta con Roma Juventus. No, andiamo avanti. Carico da mille. Allora, uno scatenato Paolo Liguori. L'indomani, il giorno dopo, la atroce beffa di quell'arbitraggio di Rocchi. Vediamo se questa sera siete d'accordo. Secondo me neanche stasera. Io mi siedo però Allegri, guarda. Guarda, non ti fa tanto onore, visto la mia storia e la tua storia. Vabbè Rigo, però se sei permaloso. No, chiarisci.

Però davvero la gestione adesso della, di questa sconfitta immeritata sarà importante. Garcia è il primo a saperlo, perché la prima cosa che ha detto è: però noi abbiamo sbagliato due gol facili, sì, e Manolas non doveva farsi giustizia da solo, cioè ha immediatamente capito qual è il problema. Certamente, vero, no? Certamente. Che ci sia un ricasco anche nelle prossime gare, tanto quella ormai è passata, nessuno nemmeno... No, ha capito Luca. La Juve subito ha messo sul sito che il fallo di mano di Maicon era fuori, no? Sì. Sì, tanto sì. Che cosa gli costa, nel senso? Sì, sì. No, ma Garcia ha capito perfettamente qual è il problema a questo punto, cioè quello in una città soprattutto come Roma di crearsi una montagna di alibi. Che posso dirti che l'intervista dell'altro giorno di Garcia, secondo me, nel post partita è una grande intervista, considerata anche la pressione, il fatto che era stato espulso, i problemi che c'erano stati, lo steward. Secondo me lui l'altro giorno a fine partita ha dimostrato per l'ennesima volta di avere una grande testa, cioè la testa di uno che già sta pensando alla partita successiva e che appunto vuole evitare che questa sconfitta pesi di più dei tre punti che sono stati lasciati sul terreno. Senti, tecnicamente io che sono un maligno come tutti i professionisti della comunicazione, ti dico che è stata ancora meglio quella la comunicazione della Roma post partita, perché oltre ad avere l'immagine di Garcia appunto che non sbrocca, ci hanno aggiunto anche la parte di Totti che invece va giustamente a toccare le corde del tifoso, no? Perché solo ed esclusivamente il saper perdere, no? Era poco in quel momento, ci voleva anche però una risposta al tifoso che diceva mi hanno rubato un'altra partita. Ecco, Luca, aspetta, su quell'avverbio che hai usato, cioè giustamente, discutiamo un attimo subito dopo il traffico, insieme a quest'immagine di Garcia che adesso finirà sulle magliette come le manette di Mourinho, no? La svionata. Dai, traffico. Lei è stato cacciato per questo gesto mimato, cos'era, un violino? Perché? E perché è stato cacciato? No, ma questa cosa non è importante, preferisco parlare della partita, ci sono passati tanti episodi, no? Diciamo così, ma abbiamo perso perché anche un po' della colpa nostra, abbiamo avuto due grandi occasioni che non abbiamo segnato e abbiamo preso tre calci piazzati. Siamo il primo stadio che mette le panchine in mezzo alla gente, quindi un fatto di crescita culturale, probabilmente ancora non siamo pronti definitivamente, e quindi c'è stato sicuramente deplorevole il comportamento di alcuni nostri tifosi che sono stati anche, la società è stata sanzionata dal giudice sportivo con delle multe, però devo anche altrettanto dire la multa 30.000 euro. Ma il fatto che le panchine siano messe in mezzo alla gente deve essere necessariamente un passo in avanti di crescita per il nostro movimento. Questo Marotta, a proposito dello stadio, vorrei tornare su quell'avverbio usato da Valdiserri a proposito delle parole di Totti, giustamente. Pier? Bah no, io l'ho detto ieri, io penso che Totti abbia parlato da tifoso, ma io non voglio un Totti normalizzato, voglio un Totti che finge e che non dice quello che pensa. Totti ha detto quello che pensa, l'ha detto fra l'altro ieri sera con Graziano, abbiamo parlato anche dell'aspetto del deferimento e Graziano ha detto che alla luce della sua esperienza secondo lui non rischia, perché le parole che ha usato secondo lui dal punto di vista giuridico non dovrebbero creargli problemi, e Totti in quel momento voleva mandare un messaggio ai tifosi e l'ha fatto, ma io dico che se noi giornalisti tante volte ci lamentiamo delle risposte stereotipate dei calciatori, di quelle frasi fatte, di chi fa 0-0, e poi insomma Totti che è incazzato nero dopo quella partita lo dice, secondo me può dirlo. La cosa più ipocrita sarebbe sentire Totti che dice che va tutto bene, Totti come chiunque altro al mondo, insomma. Se a noi piace sentire Malesani che svacca o Gattuso, perché evidentemente c'è ancora testa, c'è ancora cuore, anima, passione che pulsa nelle vene, e quindi questa gente qui dice delle cose. Poi nello specifico io non credo che ci sia, assolutamente non credo che ci siano i bonifici, quindi io non credo io credo che la Roma possa vincere lo scudetto, non penso che sia scritto che non lo può vincere perché tanto gli arbitri lo faranno vincere alla Juve. Credo che la Roma sia comprensibilmente amareggiata per quello che è successo l'altro giorno, mi sembra talmente evidente che e mi sembra quasi banale dirlo, insomma. Però ecco, un Totti normalizzato, un Totti che fa finta, non mi piace. Luca, la Roma è più forte. Prima di salutarti, Luca Valdiserri, la Roma esce in qualche modo ovviamente nel confronto con, anche con l'anno passato, rinforzata da questa partita, rafforzata nelle sue convinzioni da questa partita? Allora, prima ti dico che il giustamente non era, non riguardava il contenuto di quello che ha detto Totti, ma il fatto che di posizione che ci fosse all'interno della Roma una parte, diciamo così, più cerebrale, sì, che è quella di Garcia, che dice attenzione, il campionato non è finito, noi anzi dalla prossima ci rimettiamo sotto e vi faremo vedere che lo vinciamo noi lo scudetto, sì, e una parte invece più di pancia, più legata appunto anche al tifoso, che dice questa partita questa sera ce l'hanno rubata. Per cui dal punto di vista della comunicazione per me c'è stato un equilibrio quasi perfetto nella comunicazione della Roma. Per quanto riguarda io le vedo tutte le partite e ti posso dire che rispetto all'anno scorso, in cui la partita è durata 40 minuti, sì, quest'anno la partita non solo ne è durata 86, ma la Roma ha fatto come la Juve. E anche questo ambiente molto surriscaldato, se la Roma lo prende come, non dico un atto di paura da parte della Juve, perché la Juve non ha paura di nessuno, ma come un atto per cercare di esorcizzare un avversario che ti è sembrato molto più forte di quello, sì, che era l'anno prima, se la Roma ragiona in questa maniera, sì, esce più forte da questa partita. Se invece la Roma, e ci metto dentro tutto, la squadra, la città, eccetera, ne esce come... hai visto, siamo sempre alle solite, alle solite, allora arriva la rassegnazione. Ma io sono sicuro che dirigenza, allenatore lavoreranno in questa direzione, lavoreranno sulla sua prima versione. Grazie Luca, ciao Luca, ciao. Grazie. Ciao. Facciamo in tempo a salutare Alessio da Arezzo, sì. Poi ti, sì, nel frattempo ti ci dicono ovviamente che siamo gobbi oppure che siamo romanisti, va bene, va, ma un classico, vai Alessio. Buonasera. No, io volevo venire sulla tweet di questa, mi attacco un attimo a quello detto da Pardo prima, cioè comportamento civile e incivile dentro e fuori del campo. Bonucci ha avuto un comportamento incivile fuori dal campo con quel tweet, dovreste stigmatizzarlo. No, ma l'abbiamo fatto, ragazzi, l'abbiamo fatto. Sì, ma pesantemente. Cioè, ma, io veramente no, perché siccome adesso sono suscettibile su questo argomento qui, cioè io mi sono sentito dire che io dovevo zittire ieri sera Liguori da alcuni, altri, ma come hai fatto a farti quelle cose a Nedved? Che facevo? Gli mettevo. Cioè, e qui Bonucci ha detto una cosa che certamente non rasserena il clima, una cosa che non ci piace perché non va nella direzione di provare a guardare oltre 36 ore dopo. L'abbiamo detto, pare che c'è stata pure la smentita? No, no, c'è stata la precisazione. No, c'è stata la precisazione. Cioè, non di... ci date un potere che non abbiamo. Di Bonucci, no, c'è da dire su questo tweet che invece Conte e Oriali sarebbero infastiditi appunto dal tweet di Bonucci. Questa è una notizia, non sto inventando nulla. Il CT aveva detto di lasciare fuori dalla nazionale le polemiche del campionato. Questo non mi sorprenderebbe assolutamente, no, soprattutto 36 posizione. Ore dopo la partita, ritornare su questa roba qui, insomma, no? È eccessivo. Cioè, mi pare evidente, no? Va bene, Pier, ci sentiamo domani? Senz'altro. Molto bene. Molti saluti. Molti saluti. Ti abbraccio, mitico. Beh, come avete visto, siamo stati buoni per Natale, eh? Giusto un regalino, qualcosa di soffice e di morbido. Va bene, torniamo domani nel giorno di Santo Stefano con le mandorle. Grazie a Franco Piantanida, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti e buon Natale di nuovo.